Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo anche dalle borse che oggi vanno particolarmente bene. Milano più 3,80%, Parigi più 3,40%, Francoforte più 3%. Che cosa è successo? Sostanzialmente c'è un rimbalzo dopo le perdite di ieri. E poi ci sono casi specifici oggi in borsa, penso a Prismian, ma non solo. Vanno bene, particolarmente bene, tutti i titoli legati al lusso. L'euro a quota 1,11, ma Ferragamo guadagna il 6,70%, Luxottica il 5,60%, Yux il 5,20%, Moncler più 4,80%. Ancora tra i titoli non legati al lusso segnalo il Banco Popolare più 4,60, Generali più 4,5, Unicredit più 4,40%, come Enel ed Azimut. Restiamo su chi guadagna più del 4%, che sono UbiBanca più 4,30, come Unipol e Prismian. Appunto, Prismian, ne parleremo, ha annunciato oggi l'acquisizione di una società negi Stati Uniti, la Gulf Coast Downhole Technologies, per 45 milioni di dollari. Prismian, per capirci, è l'ex Pirelli Cavi. Mediaset più 4,20, Intesa San Paolo pure, e anche Mediobanca guadagna il 4,20%, Unipol sai il 4%, Atlantia il 4% anch'essa. Di negativo c'è solo Saipem, meno 0,50%. Avremo anche oggi aggiornamenti sulla vicenda Volkswagen. Il Consiglio di amministrazione è riunito da questa mattina in pole position per il nuovo capo della Volkswagen. Dopo le dimissioni dell'amministratore delegato c'è il numero uno di Porsche, Matthias Müller. Porsche è comunque il primo azionista di Volkswagen al 50,7%. E poi ci sono le dichiarazioni, che ascolteremo più avanti, del ministro ai trasporti tedesco, il quale ha sostanzialmente dichiarato che le auto truccate circolanti in Germania sarebbero 2.800.000, coinvolti anche i motori 1.200. Si parla sempre dell'alimentazione a gasolio. Lo comunica appunto il ministro dei trasporti Dobrindt, aggiungendo che le manomissioni sono senza dubbio illegali. E poi si viene a sapere dall'agenzia di stampa che Volkswagen gestiva i risultati dei test antismog, che ora ammette essere falsi, dai suoi uffici tedeschi. Questo complica l'affare, nel senso che non era, come inizialmente si è cercato di far credere, la filiale americana a gestire il tutto. I criteri, i risultati e l'ingegneria delle auto che non c'entravano i target delle missioni erano supervisionati dai manager di Wolfsburg, quindi della sede centrale e mondiale del gruppo Volkswagen. Tra l'altro, il valore del marchio secondo Brand Finance si è già ridotto di 10 miliardi di dollari, e per recuperare questa cifra ci vorranno tra i 5 e i 10 anni, mentre oggi la rivista automobilistica tedesca Autobild smentisce se stessa. Ha detto: non abbiamo mai avuto l'intenzione di accusare BMW di manipolare i livelli di emissioni, tant'è che chiede scusa appunto alla BMW, coinvolta ieri impropriamente a questo punto nella vicenda Dieselgate, come si chiama ormai, mentre la Daimler fa sapere di non avere mai manipolato i test sulle emissioni. Si riunirà poi il 6 ottobre a Bruxelles il comitato tecnico composto dalle varie autorità di omologazione nazionali per capire se saranno necessarie altre indagini sui produttori. E invece in Norvegia la polizia norvegese avvierà un'indagine sullo scandalo delle emissioni di Volkswagen per verificare se siano state condotte attività criminali in Norvegia e se la frode abbia comportato delle conseguenze per le auto importate nel paese. E di questo parleremo anche più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi è venerdì, quindi c'è l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia sul malfunzionamento della nostra pubblica amministrazione, gli sprechi, ma non solo. Avremo anche il caso virtuoso, e quindi di chi si è rimboccato le maniche e ha lanciato una sua attività in questi anni difficili, difficilissimi in molti casi. Parleremo anche di Stati Uniti, perché ieri, al di là del malore del numero uno della Federal Reserve, la Yellen, Janet Yellen, tutto è rientrato, ha comunicato insomma in maniera molto netta che l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti nel 2015 è appropriato, e quindi lo si farà più avanti nel corso dell'anno. L'anno non è che abbia ancora molti mesi, quindi da qua a dicembre aumenteranno i tassi americani. 349, dicevo, 238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Parlavamo degli Stati Uniti, ne parleremo anche perché il PIL americano sta accelerando, ecco il motivo per cui la Federal Reserve ha gioco facile nel dire aumenteremo i tassi entro quest'anno. L'economia americana infatti è cresciuta del 3,9%, è il PIL rivisto nel secondo trimestre, le attese erano di un 3,7%, spingono quindi una crescita particolarmente sana quella americana, perché viene spinta dai consumi interni, più 3,6%. Dicevo più 3,6% contro il 3,1% stimato in precedenza per i consumi. Le costruzioni, a dimostrazione che quando riparte il settore immobiliare riparte un'economia, riparte completamente un'economia, le costruzioni residenziali negli Stati Uniti sono cresciute del 9,3%, quelle non residenziali del 6,2%. Ancora, veniamo all'Italia, i temi di carattere europeo li ho già elencati, faranno parte del nostro approfondimento. Oggi la CGIL ha fatto sapere, per voce del coordinatore CGIL Beni Culturali, Claudio Meloni, che alla convocazione di ieri al Ministero dei Beni Culturali per la vertenza sui beni culturali, il governo ha annunciato che inserirà nel disegno di legge di stabilità una norma che finanzierà un piano di occupazione straordinario per i beni culturali in deroga alle normative che regolano il turnover. Questo vuol dire, ha continuato Meloni, che ci potranno essere più assunzioni, attualmente di circa 1300 lavoratori mancanti rispetto alle previsioni teoriche. Non a caso le agenzie titolano Colosseo, perché sappiamo che l'ultimo caso clamoroso su questo si è verificato proprio al Colosseo. E poi un'altra notizia che arriva invece dal mondo, sempre dal governo, ma di carattere fiscale. Il sottosegretario Enrico Zanetti, sottosegretario dell'economia, ha annunciato che la proroga della voluntary disclosure, ne abbiamo parlato molte volte, è quella possibilità di dichiararsi completamente al fisco in quello che sono capitali all'estero illecitamente detenuti all'estero, fare appunto questa disclosure volontaria, avere anche dei benefici, ma soprattutto non incorrere nelle sanzioni pesantissime che vi saranno una volta che sarà finito il termine per dare volontariamente la propria posizione. Dicevo, il sottosegretario Zanetti, siccome tutti gli studi commercialisti sono in ritardo, ma non per colpa loro, per colpa anche di come si è sviluppata la volontaria disclosure, ha detto che la proroga si discuterà nel Consiglio dei Ministri di martedì prossimo, e su questo e a questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'hanno chiamata voluntary disclosure con un anglicismo scuro, ma significa di fatto rientro dei capitali pagando uno sconto sugli interessi e sulle tasse. Sembra che non ci riguardi e che interessi solo i pochi o i molti possessori di conti in Svizzera o in Lussemburgo. Invece ci riguarda tutti perché sono proprio le tasse pagate sui capitali che rientrano a evitare che aumenti l'IVA dal 1 gennaio del prossimo anno e a evitare che scatti l'aumento delle accise sulla benzina dal 1 ottobre. Dunque ci riguarda tutti. Sono stati fatti diversi pasticci però fino adesso. I professionisti che devono organizzare l'istruttoria delle domande, cioè commercialisti, avvocati, notai, consulenti o dirigenti di banca, sono assaliti dai clienti che sono in crescita in queste ultime settimane e hanno ormai una lista d'attesa cospicua. Finora sono state circa 18.000 le domande ufficialmente presentate all'Agenzia delle Entrate, ma una stima per difetto ne evidenzia almeno 6 volte tanto. Si tratta di domande che sono rimaste invischiate proprio nelle incertezze normative. Il governo ha contabilizzato al solo scopo formale 671 milioni di incasso, ma le attese vere oscillano fra 2, 3 fino a 4 miliardi di euro. Il 28 agosto è arrivata la quarta circolare interpretativa per complessive 153 pagine che doveva togliere gli ultimi dubbi, ma non è stata sufficiente. Per questo i professionisti premono per una proroga. Il termine di presentazione ufficiale ormai è il 30 settembre e proprio oggi il governo aveva promesso di correre ai ripari procrastinandolo al 30 novembre. Ma il Consiglio dei Ministri ha rinviato. Deciderà probabilmente martedì, a soli 48 ore dal termine ufficiale. Fatto che, per chi deve gestire una documentazione complessa e prendersi responsabilità rilevanti, non è sufficiente quindi a sbloccare le domande in attesa. E questo diventa un guaio potenziale anche per i conti pubblici e sicuramente un rischio reale per chi deve fare il pieno di benzina all'automobile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, torna la nostra classifica. Oggi abbiamo così tante notizie che abbiamo dovuto spulciarle. Alcune le andremo ed eliminarle, depennarle, le manderemo le prossime settimane. È chiaro che al primo posto, parto dall'inizio, ma solo per un istante, al primo posto andrebbe la notizia, in questo caso positiva, del licenziamento dei dipendenti assunti nel 2008 a chiamata diretta, tuttora in organico, 37 su 41 di 23 autisti dell'AMA. È la decisione presa dal Consiglio di amministrazione dell'AMA, convocato d'urgenza, anche perché tutte le assunzioni in questione, quelle citate, erano da considerarsi illegittime e hanno fatto conseguire, secondo quanto riporta il CDA dell'AMA, un ingiusto vantaggio patrimoniale ai diretti interessati. Tra l'altro, ricordo che il 27 maggio scorso i giudici della settima sezione del tribunale hanno condannato a 5 anni e 3 mesi di reclusione l'ex AD Franco Panzironi, che è in carcere ma per un'altra imputazione nel processo Mafia Capitale, spiegando che tra l'altro le 41 assunzioni a chiamata diretta avvenute tra il 2008 e il 2009 furono frutto di decisioni arbitrarie e clientelari. Ma questa era notizia già bella nota su tutti i giornali. Vogliamo partire da notizie, come sempre, che magari sfuggono. Allora, potremmo iniziare, e andiamo al quinto posto, da questa simpatica abitudine che avevano 10 dipendenti assenteisti all'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, beccati nell'operazione Just in Time. Si tratta di una caposala, 4 infermieri, 2 tecnici specializzati disinfettori e 3 operatori sanitari. Che cosa facevano? Beh, semplicemente risultavano al loro posto in ospedale, in realtà andavano a fare la spesa al parrucchiere, giocavano a carte e addirittura li hanno beccati anche a passeggiare in riva al mare nella vicina Vietri, sul mare. Le indagini hanno appurato che i dipendenti, dopo aver marcato il cartellino, fatto marcare il cartellino dai colleghi, che poi ricambiavano lo stesso favore, si dedicavano a altre attività. Il procuratore Corrado Lembo però ha spiegato che accanto ai 10 indagati c'è una rete di inosservanze ripetute e hanno scoperto ben 850 persone, ecco perché la cosa è di rilievo, per quello che riguarda l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, 850 persone che hanno avuto più o meno la stessa condotta. E non c'entra come regione, ci mancherebbe, però c'entra come struttura e servizio sanitario nazionale. Chissà che cosa ne pensa di questo il cittadino disabile che, recatosi agli uffici AS dell'ex ospizio marino a Giulianova, provincia di Teramo, è partito da Notaresco, ha raccontato il marito della signora disabile. Dopo aver percorso 30 chilometri, mia moglie si reca agli uffici AS di via Ospizio Marino per richiedere il tesserino di esenzione per la patologia di cui è portatrice, purtroppo distrofia muscolare. Ha aspettato mezz'ora per mancanza di energia elettrica, no? Dico. Poi ha atteso un'altra mezz'ora. Quando finalmente è arrivato il suo turno, allo sportello gli ha detto di tornare perché la stampante era rotta e quindi non potevano stampare il tesserino. Quindi non solo hai una disabilità pesante come la distrofia muscolare, non solo aspetti mezz'ora perché manca l'energia elettrica nel 2015, ma quando poi tocca il tuo turno si è rotta la stampante e nessun'altra stampante presente in ufficio poteva effettuare la stampa di quel documento. Tra l'altro è un ufficio questo dove molti si lamentano perché c'è la presenza di un solo operatore. Chiediamo se a Giulianova, provincia di Teramo, si può gestire una ASL in questo modo, perché siamo nel 2015, una stampante, l'elettricità sembra un racconto da paese in via di sviluppo, se non si offendessero i paesi in via di sviluppo a sto punto. Ma restiamo in tema sanitario, perché c'è un'altra storia bellissima. All'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli è frequente, ed ecco andare al nostro terzo posto, che i malati vengono affidati ai parenti a causa della penuria del personale. Praticamente hanno azzerato molte sedute operatorie programmate per la carenza di anestesisti. Mi dico, ma com'è possibile che... cioè, allora, il reparto di chirurgia generale al Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli è ampiamente sottoutilizzato. C'erano appena 10 letti occupati su un totale di 24. Ma la direzione sanitaria ha imposto e ordinato il blocco dei ricoveri programmati. Per cui un paziente che deve essere operato per un'ernia inguinale, emorroidi, addirittura un cancro, ma che non dà evidenze da fare ipotizzare pericolo di vita immediato, non trova posto a Gallipoli. La lista d'attesa in chirurgia sono 150 persone in attesa di ricovero. Alcuni interventi sono in agenda per il gennaio del 2016, ma molti sostengono che sarà difficile realizzarli. Tra l'altro l'ospedale fu inaugurato nel 1996, il Sacro Cuore di Gesù. Sapete quando iniziarono i lavori? Negli anni 60. Alla fine la struttura, distribuita su tre grosse torri, è stata, dopo un lungo periodo di abbandono, rimessa apposta. Sorprende l'abbondanza di spazi vuoti, uno spreco di tutti gli ambienti utilizzati. Pensate che c'è addirittura un seminterrato completamente vuoto, lasciato da anatomia patologica, che si è trasferita al settimo piano. Sul muro comunque accanto all'ingresso della direzione sanitaria manca l'intonaco e davanti all'ingresso principale del nosocomio è sosta selvaggia. Complimenti anche a chi gestisce il Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. Ci avviciniamo alla parte alta della classifica, certo, e andiamo, visto che parlavamo della Puglia, però questa me la fate dire perché è bellissima. Qualcuno si ricorda come andarono le consultazioni del 31 maggio elettorali, quando non arrivavano i dati mentre erano già arrivati dalle altre regioni, proprio dalla Puglia? Lo dico perché nonostante il flop della macchina elettorale pugliese, della regione pugliese, oggi scopriamo che la regione ha dato a 31 dipendenti arruolati tra aprile e luglio, perché tutto filasse liscio, evidentemente, però così non è stato, ha dato anche dei premi, 80.000 euro lordi di straordinari. Ora, i compensi variano da 12.500 euro a 11.800 euro. Io vorrei capire perché li dai, visto che sei stata, se non ricordo male, la regione più in ritardo nel far affluire i dati elettorali. Ma ci stiamo prendendo in giro? Non solo li dai in ritardo, ma dai anche dei premi bonus sotto forma di straordinari agli 80 dipendenti. Beh, andiamo verso, dicevo, la parte alta della classifica, e qui non posso non citare quanto è avvenuto a Roma, o meglio nel Lazio, alla Cotral, che è l'azienda di trasporto pubblico regionale, che chi la utilizza, insomma i pendolari, sanno insomma le condizioni in cui versi la Cotral e soprattutto le casse della Cotral. Perché? Perché qui c'è una causa in corso. Gli agenti della Guardia di Finanza a fine luglio sono riusciti a recuperare una lettera che vale un tesoro. È una lettera che vale per la precisione 800.000 euro che vengono garantiti in caso di licenziamento, infatti poi si è licenziato, dall'ex presidente di Cotral e oggi consigliere regionale del PDL Adriano Palozzi all'allora capo del personale Silvio Blasucci. Sono 800.000 euro di soldi pubblici che il Palozzi firmò dovuti al Blasucci qualora fosse licenziato. Perché questa lettera è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza? Perché sta indagando il PM e dice lo stesso PM, rilevato che dagli atti emergono gravi indizi di reità in ordine agli ipotizzati reati e quindi è necessario procedere in qualsiasi luogo dove sono custoditi questi indizi di reato, tra cui questa lettera che faticosamente hanno trovato gli agenti della Guardia di Finanza. Praticamente quando si sono insediati i nuovi vertici della Cotral, il presidente Amalia Colaceci e l'amministratore legato Arrigo Emilio Giana si sono ritrovati sulla scrivania la richiesta di Blasucci, effettivamente licenziato, 800.000 euro grazie alla lettera di Palozzi in tasca. Tra l'altro Palozzi, dopo aver firmato questa lettera che vale un tesoro, ne firma un'altra lo stesso giorno, era il 24 gennaio 2013, indirizzata alla Regione Lazio: comunico le mie dimissioni dalla carica di presidente. Quindi l'ultimo atto che ha dovuto fare, inderogabile, fondamentale, era garantire in caso di licenziamento all'allora capo del personale Blasucci 800.000 euro, che è una cifra non si può sentire. Andiamo al primo posto della classifica, dove torna in maniera prepotente la Regione Sicilia, mancava da un po', sia sui dirigenti ma anche sull'abbellimento della città metropolitana di Palermo. Chiedo ancora un po' di pazienza, ho il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. :17:36, siamo arrivati alla prima posizione. Ho detto il licenziamento dell'AMA era una buona notizia, il licenziamento di chi era stato assunto in maniera regolare, ci mancherebbe. Però non è tanto la città metropolitana di Palermo che da questo punto di vista, mi fate già partire, no, a me piaceva ancora non tre che chiù, comunque non è tanto la città metropolitana di Palermo. A Palermo ci sono le elezioni il prossimo 29 novembre della giunta regionale per il ritorno alle urne, e Palermo avrà il nuovo primo inquilino della città metropolitana. Non si è ancora insediato a Palazzo Jung, però è già arrivata, guarda che efficienza, quando vuoi la pubblica amministrazione sa essere molto efficiente, è già arrivata la richiesta di spendere 100.000 euro più IVA per le forniture dell'arredamento d'ufficio. Cioè manca ancora il nuovo inquilino, manca ancora il sindaco della città metropolitana. Immagino che il problema di Palermo fosse, e della parte che riguarda il Palazzo Jung, fossero proprio gli arredi. La delibera però, il capitolo è 219500, fornitura arredamento uffici, somma di 100.000 euro per provvedere all'allestimento della nuova aula consiliare presso Palazzo Jung e all'arredamento dei locali da destinare agli assessori e ai componenti del nuovo organo politico di questa amministrazione. Oh, ma non è che si poteva portare qualche scrivania, qualche sedia, lo so, siamo populisti, dal vecchio comune di Palermo? Non si può, tutto nuovo deve essere, va bene. Ma non è questo quello che ha fatto vincere la prima posizione oggi alla Sicilia, è la Regione Sicilia e i mitici dirigenti pagati per studi fantasma. Allora, la Regione Sicilia, Palazzo d'Orléans, spende circa 15 milioni di euro l'anno tra fondi e enti di ricerca regionali, università e l'ERSU, che è l'ente regionale per il diritto allo studio universitario. Nonostante questo, ci sono 76 dirigenti che non hanno un ufficio da dirigere, e dice che cavolo dirigi allora, ma hanno attività di studi e ricerche. della serie meglio studiare che fare. Allora si va dalla fondamentale analisi dell'urbanistica di Messina, l'analisi, non che poi questo voglia dire che c'è una operatività dell'urbanistica di Messina, al teatro, allo studio del teatro popolare, dalla frutticoltura al grano saraceno, passando per i flussi turistici. Ripeto, sono persone, dirigenti, che non devono poi operare un miglioramento in questa attività, ben venga, ma solo studiare. Allora, lo stipendio lordo base è di 60.000 euro più una parte variabile fino a 3.000 euro l'anno, e complessivamente questi 76 dirigenti costano alla regione Sicilia, quindi ai siciliani, 4 milioni e mezzo di euro l'anno, che non è proprio pochissimo. Allora, il record va ai beni culturali. La struttura, è noto, non ha un euro delle volte per garantire il funzionamento dei musei, dei siti archeologici, ne abbiamo parlato decine di volte. Spesso non stanzia nemmeno i fondi, lo raccontammo, per cambiare una lampadina, eppure ha a libro paga 31 dirigenti distaccati a fare studi che vanno appunto dall'urbanistica di Messina ai restauri delle chiese barocche, passando per le tradizioni popolari dell'isola, e al teatro dei pupi e dei carretti siciliani. Studi, non, ripeto, fattibilità. Un dirigente che magari analizza per poi dare una direttiva, suggerire un piano di intervento, già sarebbe qualcosa. Studi. Allora, con sapete quanti dirigenti ha il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Sicilia? 280. Di questi, 11% fanno studi, studiano, senza un ufficio da dirigere, ma studiano. Ai beni culturali questi dirigenti costano 1.800.000 euro l'anno. Ora, non è che tutti siano inutili, ci mancherebbe, però una parte di questo venisse risparmiata, magari potete destinarla ai musei e ai siti archeologici, ma mi rendo conto che anche questo sia populismo. Poi c'è l'assessorato all'agricoltura della Regione Sicilia, che ha 14 dei suoi dirigenti impegnati in compiti di consulenza, studio e ricerca. Ora, la cosa bellissima è la spiegazione che viene fornita, ma sa, molti vogliono rimanere a lavorare vicino a casa e quindi hanno ricevuto incarichi per studi sulla frutticoltura o le coltivazioni di grano. A parte il fatto che ci sono decine di altri enti che studiano il grano, la frutticoltura, non è che lo studia il dirigente dell'assessorato all'agricoltura della Regione Sicilia, ma smettiamola. Ma che motivazione è? Poi c'è un altro dipartimento, che è quello tecnico, 9 dirigenti con incarichi assegnati solo per studiare. E ci sono dirigenti che studiano anche all'ente per il diritto allo studio, vorrei sapere che cosa studino, che ogni anno riceve dalla regione 13 milioni di euro per contributo, affitto e borse agli universitari. Allora, dal Dipartimento Funzione Pubblica della Regione spiegano che i contratti di studio sono previsti dalle norme regionali, e infatti nessuno ha detto che siano illegali o illeciti, diciamo che sono inopportuni. Il problema però è appunto è la percentuale di quanti studiano rispetto al numero dei dirigenti. Praticamente è emerso che alcune ricerche hanno oggetti talmente generici che uno ci può mettere quello che vuole. C'è una legge, e qui veniamo anche alle cause all'origine, una legge del 2000 che ha riformato la pubblica amministrazione regionale siciliana e ha creato i famosi dirigenti di terza fascia, cioè che è un modo per dire tutti i colonnelli, tutti i generali. E non a caso in Sicilia c'è un dirigente ogni 8 dipendenti e in Lombardia un dirigente alla regione ogni 15 dipendenti, esattamente la metà. Un applauso notevole alla Regione Sicilia, che torna prepotentemente in cima alla nostra classifica. Dottor Fabio Terzaghi, fondatore, amministratore unico e socio di maggioranza di AFSRL di Como, buonasera. Sì, buonasera a lei. Quanti dirigenti ha lei? In realtà uno. Lo fa studiare o lo fa lavorare? No, guardi, in realtà è sottoscritto e... Diciamo che si lavora parecchio. Allora, come sanno gli ascoltatori che conoscono questo appuntamento del venerdì, noi diamo la classifica dei 5 sprechi, malfunzionamenti della settimana, poi per non deprimerci troppo diamo anche un esempio virtuoso di chi volutamente nel settore privato, ma da solo e in periodi di crisi, si è rimboccato le maniche senza sempre piangersi addosso. Giustamente mi fa notare un ascoltatore: ma cosa succede se 100.000 euro che spenderà il comune di Palermo per arredare gli uffici nuovi non piaceranno al futuro sindaco? Sono dolori, bisogna capire. Sono problemi. Comunque, restiamo con lei, Terzaghi. Cos'è AF e quando è che l'avete fondata? AF formalmente è stata fondata nel 2012, ma diciamo che l'idea di base è partita molto prima. Il primo brevetto è stato depositato nel 2009 in concomitanza con una tesi di laurea dell'epoca. Il prodotto che abbiamo sviluppato è un robot, un piccolo robottino per la pulizia degli scafi delle imbarcazioni. Ovviamente è un robot subacqueo, quindi l'imbarcazione in acqua, non quando la barca è fuori dall'acqua, ma quando la barca è in acqua. Ed è un prodotto che, se vogliamo, è simile a, come logica, all'aspirapolvere che si muove in casa o al toserba da giardino che taglia il prato, o ad esempio il robot per la pulizia delle piscine, da cui abbiamo comunque spiato e preso parecchie idee, diciamo. Ovviamente ha tutta una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono utilizzabile nella nostra fattispecie. Senta, Terzaghi, da questo punto di vista voi siete partiti nel 2013, però il fatturato dell'anno scorso è stato ancora, diciamo, modesto, 100.000 euro, capito bene? Sì, assolutamente. Ecco, allora, visto che siete lei più un ingegnere meccanico, uno di laboratorio, un commerciale in Italia e uno per letto, siete in 5, giusto? Sì. Assolutamente sì. Com'è che campate? Nel senso, e chi ha messo i soldi? Allora, sostanzialmente all'inizio, diciamo che fino a un certo livello di sviluppo, specialmente la ricerca e sviluppo iniziale, è stata interamente finanziata dai soci, che non corrispondono per forza con gli operativi. Certo. Io per primo voglio dire, ci credo e di conseguenza non considero la mancanza di uno stipendio una sorta di problema, ma è un investimento che faccio nei confronti dell'azienda, perché in questo momento purtroppo non abbiamo ancora raggiunto un determinato livello di fatturato e di conseguenza non abbiamo ancora un determinato circolante che consente il pagamento di. Però i soldi li avete messi anche lei direttamente e chi ve li ha dati i soldi all'inizio? Perché avete avuto bisogno? No, guardi, i soldi all'inizio sono arrivati solo da investitori privati. Ok. Perché comunque. Ma cosa avete fatto? Crowdfunding o avete scelto invece proprio il classico investitore privato? No. Un gruppetto di investitori privati. E soprattutto dal punto di vista dello sviluppo, anche perché credo fondamentalmente molto nella logica del team, abbiamo fatto, diciamo, uno scambio, cioè know-how o comunque assistenza tecnica, come ad esempio nel caso degli ingegneri, cambio quote. Quindi, insomma, come tutte le startup che partono da un garage, diciamo che te la devi un po' cavare inizialmente. Abbiamo iniziato a fatturare solo l'anno scorso, in realtà è una scelta, mi spiego. Nel 2012, quando è stata costituita la F, i prototipi c'erano già ed erano prototipi lontanamente funzionanti. Nel 2013, diciamo a cavallo dei due anni, è stata fatta una pre-serie, quella che abbiamo chiamato serie beta, che però volontariamente non è stata venduta, ma solo concessa in comodato d'uso, noleggiata, per avere dei feedback, perché un conto se lo uso io, che l'ho, tra virgolette, creato, pensato e studiato i suoi limiti, un conto è prenderlo dall'utente finale. Terzaghi, dopo il traffico, però io vorrei sapere, insomma, ma voi oltre al Fondo Europeo per gli Investimenti, avete società di venture capital, banche, insomma, se qualcuno poi ha creduto nel progetto, perché tra l'altro voi avete avuto come primo cliente Costa Crociere e poi sono arrivati ai privati ed altri, e che vantaggio invece Zavorra vi ha fornito il sistema paese, la pubblica amministrazione, la burocrazia dopo il traffico? Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. vi presenta Focus Economia. We'll be right back. Allora, di nuovo in diretta, per concludere con il nostro imprenditore della settimana. Alcuni ascoltatori mi dicono: ma insomma, la smetta con la classifica, mi fa solo arrabbiare, non serve a nulla. Cosa è servito conoscere questi elenchi di sprechi e ruberie? Altri scrivono: non denunci meno e si preoccupi se questi farabutti andranno in galera. Allora, vediamo di non confondere i piani. Il giornalismo denuncia, non è che io faccio il PM o faccio l'attività di inchiesta. A me non sembra preferibile non dire. È vero che fa arrabbiare, figuratevi noi che dobbiamo leggere e tirare fuori 5 su 10, 15 a settimana, quanto diciamo siamo contenti. Però l'alternativa cos'è? Far finta che tutto vada bene, ma da Madama Marchesa almeno i nomi e i cognomi li facciamo. Poi esistono altre autorità che devono muoversi su questo, e delle volte è successo. Torniamo a Bomba con Fabio Terzaghi. Venture capital e banche da un lato e burocrazia dall'altro. Chi vi ha aiutato e chi vi ha frenato? Venture capital, sostanzialmente la riflessione che vorrei fare sì. È questa. Ci sono degli esempi concreti in Italia, non è vero che il venture capital non esiste, ma la difficoltà principale è che, contrariamente al trend del settore, il settore è per il 90% un'applicazione, un software o simili, e per una restante parte magari di biomedicale. Interfacciarsi con un investitore, sottoporgli investimenti in tangible, in magazzino, in comparto produttivo e in tutto ciò che magari una volta era un po' il tessuto economico produttivo del nord Italia, in generale di questo paese, oggi non è assolutamente una cosa facile. Poi andargli a chiedere di tutti i soldi che sono stati investiti a loro volta cercando il nuovo Zuckerberg oggi, quali sono state le redemption, questo è un altro tema, senza polemizzare. Quindi venture capital, abbiamo poco tempo però, Terzaghi, venture capital non vi hanno dato una mano, le banche vi hanno finanziato? La prima linea bancaria è entrata dopo la fatturazione, ma era anche un nostro vincolo, nel senso che prima arriviamo al mercato con le nostre forze, una volta che siamo su cerchiamo perlomeno sostentamento del circolante. Il venture capital sostanzialmente è un'attività di ricerca anche quella, perciò viene fatta, ma come le spiegavo prima, come già lei diceva, è quasi un miracolo che... Senta, a livello invece burocratico, visto che voi siete una classica startup, avete avuto crediti IVA, insomma tutte le agevolazioni previste? Allora, crediti IVA sì, anche perché insomma onestamente facciamo un 90% tutto estero, oppure come è capitato con Costa, l'IVA non la vedi neanche lì tornare, perché sostanzialmente sono attrezzature che vanno su una nave. Burocrazia faccia lei, cioè non siamo congrui con gli studi di settore dell'anno scorso, pertanto dovrò perdere del tempo comunque trovarmi un professionista che mi accompagni per risolvere perché che una startup non sia congrua con gli studi di settore dell'anno prima, ce lo auguriamo tutti, perché se no saresti già morta. Va bene, abbiamo capito, grazie anche a Fabio Terzaghi, fondatore, amministratore unico e socio di maggioranza di AF SRL di Como, nostro imprenditore che nel 2013 appunto, rinunciando anche a guadagnare, molti sono sorpresi, evidentemente è chiaro che riusciva a sostenersi, però il punto è che quando ci credi metti anche il tuo capitale, se ce l'hai chiaramente. La borsa, bello il venerdì di finale della settimana borsistica, più 3,70% Milano, più 3% Parigi, più 2,77% Francoforte, l'America più 1,20%, l'euro a quota 1,11%, molto bene oggi tutto il settore del lusso in Italia. Ma anche i bancari, ne parliamo dopo. Li do intanto ancora 20 secondi. Do intanto i titoli: Ferragamo più 6,10, Luxottica più 5,70, Jux più 5,15 come Enel Green Power, Unipol più 5%, il 4,5% lo guadagnano Moncler, il Banco Popolare, ma anche Unicredit e Azimut e Ubibanca, il 4,3% è il rialzo di Generali, ST Microelectronics ed Enel, il 4% quello di Mediaset ed Atlantia. Ne parliamo, così come parliamo anche degli Stati Uniti e dei tassi americani, dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. indexpa.it. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Commentiamo adesso la borsa. Già ho dato molti dei valori in questa giornata più che positiva finale della settimana. Di negativo c'è solo Saipem, meno 0,34%. Bene anche alcuni bancari che non ho citato, recupero subito. Oltre ad Atlantia più 3,94%, venendo ai bancari c'è Unipolsai più 3,94%, Mediobanca più 3,5%, Intesa San Paolo più 3,60%, come la Pop di Milano e il Monte dei Paschi più 3%. Guido Maurino, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Quindi, tutte bene oggi le borse, rialzi analoghi anche a Francoforte e a Parigi. L'America guadagna l'1,16%, mi sembra un rimbalzo generalizzato, però aggiungi tu se vuoi, Unicredit c'è notizia e anche su Prismian c'è notizia. Sì, allora è un rimbalzo diciamo un po' generalizzato, dovuto in parte alle parole del Presidente della Fed Yellen, che ieri è tornata a rassicurare sul fatto che l'intenzione è quella di aumentare i tassi entro fine anno, ma anche confortato dalla revisione al rialzo del PIL americano nel secondo trimestre, che ha contribuito ad accelerare gli acquisti sui mercati europei. Per quello che riguarda Unicredit, oggi e di oggi la notizia che il fondo BlackRock è tornato a salire sopra il 5% del capitale dell'istituto di credito, e questa è una notizia indubbiamente positiva che ha consentito al titolo di chiudere a più 4,34%. Per quello che riguarda invece Prismian, che oggi ha guadagnato il 3,78%, la società ha completato l'acquisizione di un piccolo gruppo statunitense che però si integra bene con i prodotti che fa Prismian, un'operazione da 45 milioni di dollari soggetto poi a una serie di aggiustamenti che potrebbero portare a un esborso di altri 21 milioni di dollari, una notizia positiva che segna come Prismian continua a guardare sui mercati internazionali anche per possibili operazioni di fusioni e acquisizioni. Andiamo anche su Telecom, perché c'è il Consiglio di amministrazione in Brasile, si attendono, diciamo, adesso io non ho visto le agenzie negli ultimi minuti, si attendono novità anche sul fronte Inwit. Sì, è probabile che le decisioni del Consiglio di amministrazione verranno rese note più tardi, probabilmente anche nella notte. Si attendono delle notizie perché Telecom, che ancora controlla il 60% di Inwit, la società delle torri di trasmissione che ha portato in borsa nei mesi scorsi, potrebbe anche decidere di dismettere questa quota e cedere, diciamo così, alle lusinghe di operatori specializzati come Celnex, che è in prima linea per comprare. Si attende di capire se sarà già questo un CDA che potrà prendere una decisione sulla partecipata Inwit, che oggi ha guadagnato il 2,02%, mentre Telecom, lo ricordiamo, più 3,08%. Ancora tra i titoli, poi arriviamo al settore auto, Saipem, che spicca perché è l'unico negativo in una giornata tutta positiva. Cosa sono ancora le ipotesi di un aumento di capitale? Sì, continua a pagare questa incertezza relativa all'aumento di capitale. Nelle ultime sedute abbiamo visto spesso il titolo Saipem in difficoltà, anche oggi una giornata molto positiva per le borse, ha ricevuto lo 0,34%. Ancora sui titoli, oltre a quelli citati, anche Pirelli si è mossa poco, vista la giornata più 0,13% e Duty Free più 0,20%. Andando invece ai titoli, ai migliori e peggiori in assoluto, Kinexia più 22%, anche qui c'è notizia, sì, è migliore in assoluto. Sì, la società ha annunciato la decisione di cedere una subholding Volteo, attiva nelle energie rinnovabili, alla controllata Innovatech. Si tratta di un processo di trasformazione che sta riguardando Kinex, è una riorganizzazione industriale con una separazione delle attività dei servizi ambientali che appunto saranno concentrate in Kinexia, mentre in Novatec ci sarà tutta la parte di energie rinnovabili, e sull'onda di questa operazione oggi il titolo appunto si è mosso in forte rialzo. Ancora tra i migliori e peggiori in assoluto, oltre a Kinexia, la Roma Calcio più 7,40, Egon più 6,90, poi Ferragamo più 6,10, Geox più 5,80, fronte opposto invece poca roba, Vita società editoriale meno 2,94, Worldspace 2 meno 14,20, Iniziative Bresciane meno 2,33%. Prima di arrivare al settore auto, che è il nostro, di cui adesso parlerò, voi avete realizzato come Radio Coro oggi anche un sondaggio sugli operatori di borsa, alla luce anche di quello che sta capitando da un lato al settore auto, appunto, dall'altro anche al rallentamento della Cina. Cosa è emerso? Sì, diciamo che nonostante i forti scossoni di questi ultimi giorni, prevale ancora l'ottimismo fra gli operatori. Il 58% prevede che nei prossimi 6 mesi i mercati miglioreranno, ci saranno dei rialzi sulle borse mondiali, ed è anche interessante osservare come questo 58% osservato nell'ultimo studio si confronta con il 51% della stessa indagine che avevamo fatto un mese fa, quindi ad agosto. Insomma, sembra, almeno sentendo gli operatori, che si vada verso un autunno positivo per le borse. Beh, almeno il fatto che gli operatori siano ancora positivi, il 58% vede rialzi in vista. Chiudiamo col mondo auto, dicevo, perché da un lato c'è Fiat che alla fine porta a casa un rialzo del 3,26%, mentre Volkswagen in mattinata andava bene, poi ha chiuso con un meno 4,8% di calo. Nel giorno in cui, e intanto ringrazio Guido Maurino, Radio Coro Sole 24 Ore, e auguro buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore, dicevo, nel giorno in cui il ministro ai trasporti tedesco Alexander Dobrindt ha annunciato che sono 2.800.000 i veicoli circolanti solo in Germania coinvolti nello scandalo dei test truccati da parte del gruppo Volkswagen, e aggiungendo che vi sarebbero anche vetture di cilindrata 1.200, e quindi inferiore ai modelli fino adesso raccontati e su cui si era concentrato lo scandalo, nonché alcuni furgoni. Klar ist inzwischen, dass auch Fahrzeuge in Deutschland von È stato appurato che anche veicoli circolanti in Germania sono stati oggetto di test manipolati. Alla luce delle nostre attuali conoscenze, si tratta di veicoli diesel 1.600 e 2.000. Dabei handelt es sich circa 2,8 milioni. Si tratta di circa 2.800.000 veicoli immessi nel mercato tedesco. Ora stiamo verificando se la truffa possa coinvolgere anche alcuni modelli diesel 1.200. Al momento non siamo in grado di escludere il fatto che vi siano state ulteriori manipolazioni. Questo è uno dei punti che la commissione d'inchiesta sta chiarendo attraverso i colloqui con i vertici Volkswagen. Possiamo inoltre affermare, sulla base di quanto già sappiamo, che nello scandalo dei test truccati risultano coinvolti anche alcuni dei veicoli commerciali Volkswagen, sui quali sono stati installati alcuni dei motori sospetti. E ripeto, perché si fosse da poco messo in collegamento, che da un lato si complica la posizione della Volkswagen, perché è emerso che i falsi test venivano gestiti direttamente dagli uffici tedeschi del quartier generale di Wolfsburg, non dalla filiale americana. Non ho visto ancora notizie sul numero uno, dovrebbe essere Matthias Müller, il numero uno di Porsche, a prendere il posto dell'amministratore delegato di Winterkorn, che si è dimesso, ma non abbiamo ancora notizie. Il CDA è riunito da metà mattinata, mentre, ripeto ancora una volta perché è giusto dirlo, Autobild ha sostanzialmente smentito se stesso, cioè la rivista automobilistica tedesca, che ieri aveva tirato in ballo BMW, ha detto: non abbiamo mai avuto intenzione di accusare BMW di manipolare i livelli di emissioni. I valori rilevati dalle emissioni della BMW X3 testata non sono per nulla prova di falsificazione o dell'esistenza di un sistema di manipolazione come rilevato nei veicoli Volkswagen, perché risultavano dal test della rivista nettamente più alti del previsto. Daimler invece, altro gruppo automobilistico, ha detto di non avere mai manipolato i test delle emissioni. Ripetiamolo ancora una volta, un conto è dire che quando fanno i test le case automobilistiche si mettono, lo raccontavamo in questi giorni, nella migliore delle condizioni possibili per arrivare alla migliore emissione possibile, quindi insomma gli pneumatici gonfiati, pochissimo peso dentro la macchina, il serbatoio quasi vuoto, tutto quello che volete, ad alta quota, questo diciamo fa parte del... Ma l'accusa su Volkswagen non è di avere dato delle prestazioni, diffuse prestazioni che si ottengono solo in rarissimi casi nella vita. Il problema è di avere sviluppato un software apposito per taroccare i dati sulle emissioni, che è cosa ben diversa da fare il test nelle migliori condizioni possibili, che difficilmente tu vedrai nella tua vita quando guidi, ma comunque sono vere per quanto siano, diciamo, per quanto siano le migliori condizioni possibili. Allora, andiamo sul traffico e chiudiamo con una buona notizia non nostra, anche se l'Italia si sta avvantaggiando non poco dell'andamento dell'economia americana e potrebbe farlo molto di più quanto a export. Mi riferisco al dato rivisto al rialzo sul PIL statunitense e alle dichiarazioni di Janet Yellen di ieri, dove viene definito appropriato un aumento dei tassi di interesse già da quest'anno. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, dicevamo di due buone notizie. Intanto il PIL americano più 3,9% nel secondo trimestre, cresce più delle attese, scusatemi, grazie soprattutto ai consumi interni, più 3,6%, è ripartito e anche a pieno giro tutto il settore dell'edilizia. Le costruzioni residenziali sono cresciute del 9%, 9,3%, quelle non residenziali del 6,2%. E alla luce anche di questi dati, la numero uno del Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, ha detto i tassi li aumentiamo quest'anno, è appropriato farlo già nel 2015. Poi ci sono stati attimi di paura ieri per il malore del presidente della Federal Reserve, ha lasciato il palco mentre stava tenendo una lezione all'università del Massachusetts e poi è tornata, ha detto mi sento bene, non vi sembra, sto benissimo, quindi ha rassicurato tutti. Non è di questo però che parliamo con Mario Platero, corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Allora Mario, abbiamo un combinato disposto, dicono quelli che hanno studiato. Da un lato una revisione del PIL al rialzo americano e quindi gli analisti si attendevano un 3,7, siamo al 3,9, e la Yellen che mi sembra aver tagliato la testa al toro come possibilità di speculazione. I tassi li andrà a aumentare più avanti nel corso di quest'anno. Beh, manca ottobre, novembre, dicembre, metà dicembre. Prego. Sì, io credo che a questo punto la decisione la prenderanno già alla prossima riunione dopo queste dichiarazioni. Attenzione che la Yellen ha parlato già ieri e magari conosceva anche questo dato, però rafforza ancora questa sua dichiarazione il fatto che l'avesse fatta prima di questo aggiustamento al rialzo, cioè al 3,9% come dicevi del dato sul PIL. E quindi è come dire, è quel messaggio di leadership che secondo me il mercato attendeva, quel messaggio di leadership di cui io e te abbiamo parlato in passato, ti ricordi, certo, quando ci siamo sentiti prima dell'ultima riunione, e credo che questo messaggio abbia rassicurato il mercato. Perché? Perché la Yellen si sente sicura sull'economia americana, sicura del fatto che la congiuntura globale tutto sommato andrà avanti piuttosto bene, che la Cina non rappresenta un problema perché alla fine continuerà a crescere. Sul piano simbolico è importante che l'abbia fatta questa dichiarazione ieri, quando il presidente cinese Xi Jinping era a cena con Barack Obama. Oggi incontro importante fra i due, un incontro al vertice, si è parlato naturalmente di molte cose, c'è un'agenda molto fitta, ma il tema chiave, come sappiamo, era anche quello economico, non solo per l'interscambio fra i due paesi, non solo perché la Cina ha rallentato, ma anche perché Barack Obama voleva da una parte come dire, rassicurare il presidente cinese sulla tenuta dell'economia americana, dall'altra ascoltare lui stesso parole di rassicurazione. Quindi il combinato disposto, se vuoi, è anche più ampio, si è inserita anche la Cina, speriamo con alcune parole di rassicurazione. Sì, devo dire che questo poi ha una ricaduta immediata anche per i nostri imprenditori che stanno già spostando alcuni tipi di attività o hanno capito che in questo momento è più profittevole l'area dollaro intesa come Stati Uniti e anche Canada rispetto ai famosi BRICS che hanno tirato per tanti anni, però in questo momento sono in grossa difficoltà, esclusa solo l'India, tutti gli altri non se la passano bene o sono in rallentamento, e da lì di nuovo non dimenticarsi che il mercato americano, anche per la caratteristica dei nostri prodotti da export, delle 4A del Made in Italy, è un mercato particolarmente importante, se non il più importante, e dà i maggiori segnali di crescita. Maria Platero, a questo punto, con la mossa della Yellen di ieri, che ha, è vero, rinviato la decisione una settimana fa, però ha detto a questo punto lo faccio nel 2015, noi abbiamo visto un mercato oggi molto molto tranquillo. Potevamo immaginarci che qualcuno provasse ancora a speculare, ecco l'America riparte con i tassi, andiamo a vendere, diamo un altro segnale alla Federal Reserve, non alla Casa Bianca. E in realtà nulla di tutto questo è avvenuto. Secondo te è il segno che ormai l'aumento dei tassi è stato ampiamente metabolizzato e non c'è più margine nemmeno per speculare? Esattamente, guarda, lo hai detto, cioè ormai questa idea dell'aumento dei tassi la ascoltiamo da troppo tempo, da quasi un anno e anche di più forse, e finalmente a questo punto ci sono state parole molto molto più chiare e quindi il mercato da una parte, come ti dicevo, digerisce il fatto che ci sono dati economici positivi e del fatto che la Yellen abbia, come dire, dato una dimostrazione di sicurezza su quello che capiterà per l'economia americana, ma dall'altro c'è anche la sensazione che la crescita di questa economia andrà avanti piuttosto bene, si è come dire, creato un momento di svolta, tutti l'aspettavano questa svolta, tanto valeva togliersi il dente e partire, tanto più che sappiamo dalla Federal Reserve e dalla Yellen che gli aumenti di tassi saranno molto molto molto moderati, dunque c'è una svolta, c'è una nuova prospettiva, il mercato in genere davanti alle novità, che peraltro erano attese e non sono comunque drammatiche, tende a festeggiare, soprattutto dopo le correzioni che ci sono state negli ultimi tempi. I due incontri che potrebbero essere sono quelli che tu dicevi, ce ne sono due entro la fine dell'anno, per cui a questo punto direi si tratta di capire se lo faranno alla fine di ottobre o se lo faranno a dicembre. Lo faranno già a ottobre. Lo faranno già a ottobre. Sì, alcuni mi chiedono: ma come mai allora non hanno fatto a settembre, lo fanno a ottobre? Adesso non andiamo perché a speculare. Sì. Prego. Esatto, perché il momento era particolare. Il momento era molto particolare, nel senso che c'erano notizie di difficoltà della Cina, eravamo usciti da un momento di incertezza, l'occupazione americana sembrava essere a un certo punto più debole, il Fondo Monetario Internazionale stesso aveva chiesto di rimandare un'eventuale stretta, i mercati avevano subito una forte correzione, l'idea era che forse non era il momento migliore per imbarcarsi in una stretta o rischiare comunque una crisi di fiducia del mercato, quindi l'hanno semplicemente fu una scelta più di carattere politico, diciamo, che di vero che di politica monetaria, di opportunità politica. Grazie intanto a Mario Platero in collegamento con noi da New York, e come sempre venerdì un ringraziamento anche a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione al programma anche questa settimana. Da Sebastiano Berigioni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dal Cersaie di Bologna, la patria, il Cersaie dell'industria della ceramica italiana, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.